Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Sì, mi sento sempre frenata. Per esempio, una cosa stupida, ma quando cammino ho l'impressione che devo scegliere tra il piede sinistro e il destro. Poi ci sono i numeri, ma forse non è importante, ma perché il 2 per me è solitudine, scissione. Perciò anche l'11 non va bene perché 1 più 1 che fa 2. I 3 invece l'amore. Buongiorno e benvenuti a voi a Obiettivo Salute Weekend. Oggi abbiamo aperto con una clip tratta dal film La parola amore esiste del 1998. L'avete visto, è diretto da Mimmo Calopresti con una splendida Valeria Bruni Tedeschi che interpreta Angela, una trentenne della buona borghesia che frequenta lo studio di uno psicoanalista, spinta dalle molte incertezze, dalle paure, anche un po' dalle fisse che le hanno segnato e al tempo stesso un po' riempito, perché riempiono anche la vita. E allora abbiamo pensato di parlare proprio in questo sabato in cui ci rilassiamo, di parlare in modo un po' così scherzoso, ma anche naturalmente rigoroso e scientifico, delle nostre manie, delle nostre ossessioni, di quelle cose che facciamo quasi senza rendercene conto o che facciamo proprio volutamente per rassicurarci, perché tutto vada per il verso giusto. D'altronde, chi non ha o non ha avuto delle piccole fissazioni, o se preferite delle piccole manie, sono gesti, dei comportamenti che fanno proprio parte della nostra quotidianità, a cui noi non vogliamo rinunciare, a cui, diciamola tutta, io ne ho alcune a cui sono assolutamente affezionata perché non mi costano nulla e a volte mi fanno sentire a posto, mi rassicurano. Possono anche essere dei gesti assolutamente banali che compiamo quasi senza rendercene conto, che so, arrotolarsi un po' i capelli, no? Mangiarsi le unghie, scarabocchiare intanto che ascoltiamo l'amico al telefono, oppure comportamenti consapevoli che mettiamo in atto perché ci piacciono, perché ci danno benessere, ci danno tranquillità, ci fanno sentire a posto. Evviva! Allora, però, noi oggi vogliamo capire quanto sono importanti, che cosa ci raccontano di noi. Allora, volete capire soprattutto se la puntata, il tema di oggi vi interessa? Io naturalmente mi auguro di sì. Chiamate amici, scrivetemi intanto, se volete mandarci una mail, obiettivosalute@radio24.it. se avete bisogno, come sempre, di consigli, se volete proporre delle puntate, dei temi, se volete dare dei suggerimenti, noi siamo qua. Intanto andiamo subito al lavoro, ascoltiamo il nostro test. Se vi accorgete che almeno una volta rispondete sì, allora la puntata di oggi è tutta per voi. Quindi continuate a seguirmi. Quando esci di casa, controlli più volte se la porta è chiusa? Dopo che hai stirato, ti capita di tornare a verificare se hai staccato la spina della corrente elettrica? Prima di addormentarti, hai un piccolo rituale da eseguire, altrimenti non ti addormenti? Se vai in viaggio, devi mettere in valigia il tuo cuscino oppure un oggetto senza il quale altrimenti non parti? Allora, provate a rispondere, magari rispondete sì a più di una, non importa, niente di grave, ci facciamo spiegare tutto dal nostro esperto che è tornato a trovarci, il professor Giampaolo Perna. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Direttore del Dipartimento di Neuroscienze alla Casa di Cura San Benedetto Menni ad Albese con Cassano. Professor Perna, chi non ha una piccola mania, una piccola ossessione, batta un colpo. Ne avrà sicuramente una o più di una anche lei, perché fa lo psichiatra. Beh, qualche piccola cosa ce l'ho sicuramente. Il collezionismo, che è un qualche cosa molto particolare, mi ha accompagnato dei minerali quando ero giovane, i mini assegni, tutte queste piccole cose bisogna di metterle a posto, poi i quadernetti, insomma, no? Ero uno perfettino in tante cose. E sua mamma era preoccupata? No, direi di no. Senta, ma partiamo proprio dal collezionismo. È un hobby che in alcuni casi sfiora un po' la mania, l'ossessione. Beh, dipende molto se noi collezioniamo qualcosa per il piacere di farlo e non siamo costretti a... Allora diventa un sano hobby, un sano piacere. Se iniziamo a essere costretti a, perché questa è una parola chiave, se noi siamo costretti al di là della nostra volontà a fare qualche cosa, ecco che entriamo in una condizione che comunque ci condiziona. Ed è un po' l'elemento che ci dà da spartiacque tra un sano piacere, una sana piccola mania che abbiamo, una sana tendenza a avere, a collezionare qualche cosa, invece avere qualche cosa che poi ci ruba magari pezzi di vita. Quindi ai collezionisti, che sono tante, dalla collezione di farfalle, ormai non si usa più, dire di no. Ecco, però monete, oggetti particolari, c'è chi colleziona anatra, ci sono anche, ma lei che è uno psichiatra, riesce in base anche all'oggetto che si colleziona a capire qualche cosa di chi le sta davanti? Non è così facile, è chiaro che hanno un loro senso. Minerali rispetto alle monete, Napoleone al posto delle anatre. Ovviamente quello che ci raccontano molto è anche la storia di quello che abbiamo avuto. Insomma, se io sono una persona che ama la natura, magari colleziono animaletti piuttosto che altri. Mi ricordo che mi viene in mente che io colleziono piccoli ippopotami di vario tipo, no? Se poi mi chiede perché, io non lo so. Però io ne ho uno bravo anche per lei. Senta, professore, a parte il collezionismo, il collezionista è di solito una persona molto ordinata. Sì. Non ha notato anche lei che adesso c'è un po' la mania, ci sono uscite un sacco di manuali, arrivano dal Giappone, dell'ordine a tutti i costi, di utilizzare anche il piacere di rimettere e di mettere in ordine quasi come un percorso per ritrovare se stessi, ritrovare equilibrio? Da una parte è vero, poi c'è l'altra faccia della medaglia, che è quella della libertà, dell'anarchia, delle idee, della creatività, che forse possono essere legate anche al disordine. Io ho visto anche libri che glorificavano il disordine come punto di partenza, quindi sicuramente anche lì dipende dalla situazione, dal contesto, noi possiamo essere sia ordinati che disordinati. Magari la mia scrivania può essere totalmente disordinata e magari posso essere una persona che mette a posto le mie figurine in maniera ottimale. Quindi anche lì io credo che non esista una regola fissa. Sicuramente il caos è un conto. Il caos nel senso di, scusi il termine, casino. Sì. No? Perché il caos ha tutto un significato importante. E anche l'iperordine diventa qualche cosa che poi imprigiona quelle che le possibilità. Io le dico che un suo collega che è stato di recente qua in redazione da noi, guardando la scrivania di Cruciani e la mia, ha detto: ma queste due scrivanie di chi sono? Ho dovuto confessare, ho visto che mi ha guardato un po' preoccupato. Ma voi non preoccupatevi, adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, e poi restate con noi se vi arrotolate i capelli mentre parlate, vi mangiate le unghie, vi rosicchiate le unghie, scarabocchiate sui fogli, volete mettere tutto in ordine, allineate, avete i vostri oggetti portafortuna e quant'altro, restate con noi a Obiettivo Salute Weekend. Obiettivo Salute Weekend. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. State scarabocchiando, vi state rosicchiando le unghie, attorcigliando un po' i capelli. Vi ho beccato anch'io, però sto riempiendo il foglio che ho davanti, un po' di strani ghirigori, cuoricini, perché mi aiuta un po' a concentrarmi, perché devo essere attenta oggi a fare le domande giuste ad un grande esperto che è qui con me in studio a Obiettivo Salute Weekend, il professor Giampaolo Perna, che vi ho già presentato, ma per chi ci ha raggiunto ora, ricordo che è direttore del Dipartimento di Neuroscienza alla Casa di Cura San Benedetto Menni ad Albese con Cassano. Professor Perna, manie, ossessioni, gesti che noi facciamo così, un po' perché ci tranquillizzano, un po' perché ci piace farle, un po' anche per scaramanzia. Ci sono persone che hanno bisogno di portarsi quell'oggetto quando partono, oppure di fare un piccolo rituale prima di una riunione importante. Che cosa sono? Sono gratificazioni, modi per tenere un po' a bada l'ansia, per procurarci una sorta di benessere, per in qualche modo farci stare bene. Ma io ti darei tre prospettive. Sì. Allora, una che è venuta parlando per quello che dicevi prima, pensate che la calma della mente, la meditazione, si raggiunge ripetendo dei mantra, piuttosto che una persona che fa giardinaggio ripete una serie di gesti. Sì. In quel caso lì, quella ripetizione diventa un elemento che calma la mente, che libera la mente. Quindi vedete che ripetere non sempre è negativo. L'altra cosa è il fatto che abbiamo tante piccole manie, tante piccole cose che ci aiutano a concentrarsi, a distrarci un attimino sulla situazione, e non bisogna aver paura. È vero d'altro canto che ci sono vere e proprie ossessioni e manie patologiche, e queste nella mia esperienza sono tra le cose più pesanti per la persona e per la famiglia. In quel caso è fondamentale non trascurarle, quelle sono patologie vere e proprie. È uscito di recente un libro di una americana, si chiama Sharon Bigley, Non riesco a farne meno, Feltrinelli Editore, in cui affronta il tema della esasperazione delle manie, di questi gesti rassicuranti, e che diventano poi ossessioni. Questo è un po' il lato patologico della situazione. Certo, diventano proprio delle gabbie. Quindi voi immaginatevi che siete costretti a fare delle cose perché la mente viene invasa dai pensieri ripetitivi. Quindi io ho la paura dello sporco, che di per sé stesso non sarebbe niente drammatico, ma certamente se continuo a martellarmi in maniera insistente anche quando non c'è una situazione davvero contaminante, allora diventa un'ossessione, e in quel caso lì purtroppo ci costringe a che cosa? A lavarci, a far lavare gli altri. Quindi immaginatevi un po' tutta la famiglia. Devo dire che il disturbo ossessivo compulsivo è una di quelle condizioni che più coinvolgono i familiari, più incatenano i familiari, e spesso inducono delle situazioni di aggressività e di rabbia interno, perché il familiare cerca di controllare e arginare questi comportamenti sbagliati, e purtroppo chi ha queste ossessioni si sente ancora più ingabbiato e quindi può reagire con delle reazioni. Controlla se ha spento la luce, se ho staccato il ferro, se c'è la TV accesa, controlla se abbiamo messo i soldi nel nostro posto, controlla se è spento il gas. Torniamo ai rosicchiatori compulsivi, e a chi si, ci sono anche persone che si tormentano le sopracciglia. La persona che fa questi gesti lo fa molto probabilmente per tranquillizzarsi, questo gesto ripetuto, il capello che viene in qualche modo attorcigliato, ma chi ti vede, in chi osserva questi gesti, danno un po' fastidio, quasi hanno un effetto esattamente opposto in chi li osserva. Come mai, professore? Beh, perché sono comunque gesti anomali, tra virgolette, quindi noi quando vediamo dei gesti che non sono in qualche maniera normali nel nostro punto di vista ci preoccupiamo. Anche lì è chiaro che se io mi arrotto i capelli ogni tanto e in maniera quasi automatico non è un problema, se io mi strappo i capelli e divento un'alopecia diventa un altro paio. Quindi dipende sempre dalla quantità. È importante questo. La porto verso verso l'osservazione di un occhio esterno per guardare i nostri bambini. C'è un momento in cui i nostri bambini iniziano ad avere, a sviluppare le loro piccole manie. Come intervenire? Se è giusto intervenire, che cosa fare? Far finta di niente, basarsi solamente sulla quantità, o magari in quel modo il nostro bambino vuole raccontarci qualcosa? Allora, innanzitutto la quantità è importante, perché è chiaro che se le piccole manie, mi ricordo, mio figlio metteva tutte le macchinine una di fronte all'altra, faceva file molto lunghe, ma se questo non influenza la sua capacità di giocare, di fare i compiti, di alimentarsi, di ridere, quindi se il suo, come dire, globale di comportamento è naturale, normale, sono fasi di crescita. Sì. Anche lì ricordiamoci che i bambini sono molto flessibili, molto più di noi. Noi siamo un po' più rigidi. E quindi sono anche caratterizzati da comportamenti che se li facessimo in adulti sarebbero patologici. Nella realtà sono semplicemente segnali di crescita. Quindi io direi non patologizziamo tutto nei bambini. Stiamo a osservarli. Nel momento in cui il bambino chiede aiuto oppure abbiamo un'influenza negativa sulla scuola o sui rapporti con gli altri, allora in quel caso lì bisogna chiedere un aiuto. Professore, ci sono dei gesti che facciamo in modo volontario, ma ci sono dei gesti che noi compiamo senza rendercene conto, al di fuori della nostra volontà, quasi ci fosse un pilota automatico che governa. C'è chi arriccia il naso, chi sbatte le palpebre, chi si schiarisce la voce. Si chiamano infatti movimenti involontari. Un'etichetta che comprende situazioni tra loro molto diverse. Possiamo metterci dentro i tic, il chi si schiarisce la voce, chi arriccia il naso, ma anche possiamo metterci il tremore o anche quella frenesia che molte persone avvertono quando vanno a letto prima di addormentarsi, che rovina la qualità del sonno. Ci serve una bussola, pochi minuti, ma per dare quelle informazioni utili a vederci chiaro, quindi a non ingigantire la situazione, o nel caso invece di, con grande tranquillità, segnalarla magari al proprio medico curante. Allora, ricordiamoci che i tic spesso vengono accompagnati dalle ossessioni, quindi spesso sono appaiati, poi fanno parte di uno stesso disturbo, no? Per quanto riguarda il tremore, anche lì molto spesso i tremori sono essenziali, quindi sono cose innocue, non bisogna spaventarsi appena c'è un tremore, oddio il Parkinson, no, bisogna comunque parlare col medico. Il medico ha gli strumenti per andare avanti o meno, no? Per quanto riguarda arricciarsi il naso, le piccole cose sono anche lì, il tremore dell'occhio, sono tutti piccoli movimenti, piccole caratteristiche legate allo stress o meno, che però anche lì, se non ne facciamo noi una cosa gigante, come l'occhio che trema, è capitato a tutti. Il problema è che quello che vedono gli altri è niente, perché di solito non si vede, siamo noi che lo sentiamo e sembra quasi che tutti vedano questo tremolio. Quindi cerchiamo di non ingigantire queste cose e parlarne comunque con serenità col medico di base. Anche se, ritorno ai tic, al bambino ticoso, ecco, per i genitori spesso questa è una grande preoccupazione, perché si pensa anche poi, prima di tutto, si vuole arrivare ad una diagnosi, si vuole capire se proseguirà, se invece c'è modo di arrestarlo, se è un'espressione di un disagio del bambino, si teme che i compagni lo prendano in giro. Professor Perna, anche in questo caso abbiamo bisogno della sua competenza e della sua saggezza. Cosa consiglia? La competenza è giusto, essendo come psichiatra, che dica che siano i neurologi che se ne devono occupare, quindi è importante, come dire, occuparsi dei campi che si conoscono. Come saggezza direi anche lì di non ingigantire, perché ricordiamoci che più mettiamo l'occhio su qualcosa, più questo aumenta. Quindi magari c'è un tic che vale 5 e diventa 50. No? Certo. Quindi verificare se, lasciando il bambino tranquillo, questo tende a ridursi. Fare una chiacchierata serena col medico, col pediatra, che è sicuramente la persona più idonea, e nel momento in cui il pediatra ci rassicura davvero di ascoltarlo. Perché evidentemente non è un'assicurazione fatta a caso, ma fatta da una persona che conosce il bambino ed è competente. Ma le gambe, a me piacciono di più. Gli occhi azzurri, ancora in su. Ma le gambe sono belle ancor di più. Abbiamo parlato anche di quella frenesia che può colpire le persone, soprattutto le donne, mi sembra. Prima di addormentarsi c'è un nome, si chiama sindrome delle gambe senza riposo, che la racconta tutta. Infatti il riposo viene molto messo in difficoltà. Professore, anche in questo caso l'esperto di riferimento è il neurologo, ma lei è direttore di un dipartimento di neuroscienze, ci può anche dare delle indicazioni riguardo, non per quanto riguarda la terapia o la diagnosi, che è di competenza di un altro specialista, ma professore? Ma è importante sapere che si possono curare, esistono delle cure vere e proprie, quindi questo a me è capitato di avere, come dire, pazienti che hanno avuto questo problema e l'hanno risolto. Quindi non teniamoci un sonno disturbato, perché la cosa più importante qual è? È che il sonno è un regolatore formidabile del nostro umore e dello stress. Quindi se una condizione come le gambe senza riposo disturbano il sonno, noi avremo anche degli effetti negativi nella qualità di vita e nella qualità proprio del funzionamento mentale. Grazie professor Perna. A questo proposito vi segnalo un approfondimento sulle pagine di Obiettivo Salute del professor Elio Agostoni, perché abbiamo coinvolto per raccontarci e darci il suo punto di vista come neurologo dei disturbi che abbiamo affrontato negli ultimi minuti di trasmissione. Il professor Agostoni è direttore del Dipartimento di Neuroscienze all'ospedale Niguarda di Milano. Per oggi è tutto, io vi aspetto domani alla Bufala in Tavola a mezzogiorno. Professor Perno, una volta deve venire anche lei a mangiare con noi, a cercare le bufale, ma anche e soprattutto a raccontare tutto il bello e il buono che possiamo trovare sulle nostre tavole, portare sulle nostre tavole. Poi lunedì, da lunedì al venerdì, lo sapete che vi aspetto con Obiettivo Salute e poi con i video. Allora, buon sabato, noi ci sentiamo domani alla Bufala in Tavola. Invitate pure tanti amici, c'è posto per tutti. Buona giornata da Nicoletta.